I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dagli atti del convegno del 2012, il personale politico, il sociale e il privato. Una generazione per anni si è riconosciuta chiamandosi compagna e la parola suggellava un patto di appartenenza e solidarietà, qualcosa ben oltre i gruppi politici e i loro programmi, qualcosa di difficilmente verbalizzabile proprio per la ricchezza della sua estensibilità. Compagna e femminista ancora ieri provocavano vibrazioni che penetravano fin dentro gli abissi del disagio e della solitudine che pure c'erano anche allora. Ma se sono le parole che fanno le cose, disfare quelle parole che sono allo stesso tempo categorie di rappresentazione e strumenti di mobilitazione ha contribuito alla smobilitazione di quello che un tempo si chiamava femminismo. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa trasmissione è dedicata alla militanza, cioè abbiamo pensato a porre delle questioni e a fare delle riflessioni femministe, chiaramente dal nostro punto di vista rispetto al nostro, alla nostra quotidianità e alla nostra militanza, appunto su cosa significhi la militanza e che cosa sia la militanza, anche perché è un problema che si sta ponendo da tanti punti di vista e da tanti non so, ci sono tantissime suggestioni diverse che ci hanno colpito e tutte riguardano cosa significa per un compagno, cosa significa per una compagna essere militanti o comunque la militanza. Prima di tutto due parole secche: che cosa significa militante e cosa significa militare, e lo prendiamo dalla Treccani. Cioè, militare significa partecipare in modo attivo e impegnato a un'organizzazione, un partito, un movimento e similari, svolgendo per essi una concreta opera di lotta e di propaganda. E allo stesso tempo militante, dice, di persona che partecipa attivamente alla vita dell'organizzazione specifica di cui è membro. Allora, rispetto a questa cosa, noi abbiamo scoperto, purtroppo nella nostra quotidianità e negli anni di militanza che abbiamo attraversato, che nel tempo sono cambiate diverse cose. Allora, siamo di nuovo in voce. E perché abbiamo deciso di occuparci di militanza, cioè di che cosa significhi e che cosa sia la militanza? Perché in questi anni è avvenuta una trasformazione. È una trasformazione molto pesante. Cioè, dal termine militante si è passati a quello di attivista o addirittura a quello di volontario. No? Sempre più spesso noi sentiamo quando si parla di quello che succede, sì, le attiviste di, gli attivisti di, no? Oppure quelli che si occupano delle associazioni tal d'Italia, eccetera, eccetera. Però questo non è casuale. Non è casuale affatto, nel senso, non è che improvvisamente qualcuno ha pensato di cambiare termine. Scusate, ma il microfono funziona malissimo, mi casca. No, l'ho sistemato. Quindi non è casuale. Poi è successa anche una cosa che ci ha toccati da vicino, almeno io l'ho sentito in maniera particolare, perché per molti anni il termine compagna è stato demonizzato nella maniera più assoluta, cioè nel mondo femminista, intendo, comunque tra donne. Si parlava sempre di sorelle oppure di ragazze. Ciao ragazze, com'è andata? Ragazze, qui? Ragazze, cosa facciamo la prossima volta? Perché la connotazione, cioè nel senso, la differenza sta nel fatto che non c'è una connotazione di classe nel momento in cui definisci chi è militante attraverso, no, tutte le parole che giustamente hai elencato, e anche perché appunto un po' c'è stato tutto un lavorio che è stato fatto sicuramente, no, negli anni 80 per cancellare quello che era stato il lavoro delle compagne e dei compagni, e quindi ovviamente adesso ci ritroviamo che è desueto utilizzare la parola compagno e compagna, è desueto e vetero utilizzare militante, e addirittura fondamentalmente come categorie molto spesso vengono addirittura anche da quelli che consideriamo, cioè dai compagni, sì, dalle, esatto, compagne, vengono comunque utilizzati questi termini quale attivista, che mi sembra insomma quello che vada per la maggiore, proprio per non spaventare, per non definirsi, perché se ci si definisce, comunque poi bisogna prendere atto di ciò che siamo. Certo, anche perché c'è, è invalsa, a parte il fatto che questo di cui parlava Noemi è dovuto, giustamente come lei ha detto, a una spoliticizzazione che è avvenuta in questi anni, voluta e pianificata, no? Ma la spoliticizzazione poi ha portato nel comune sentire a rifuggire da tutto quello che può essere identificato con una collocazione precisa, no? Per cui si assiste a situazioni tipo, scriviamo, soprattutto nel mondo del lavoro, però devo dire la verità che io l'ho incontrato. Scriviamo un volantino, ma non nominiamo la parola compagna, altrimenti chi viene allo sciopero si spaventa. Si spaventa di cosa? Non so se adesso non ricordo bene, vorrei avere la citazione qua davanti, purtroppo non mi è venuto in mente, non sono andata a riprenderla, però negli atti nell'opuscolo contro la violenza sulle donne che abbiamo fatto come coordinamento, per esempio c'era tutta la questione sulla definizione di donna, perché anche donna, certo, per quanto riguarda il femminismo è utilizzato, no, come vocabolo qualunquistica, generico, sì, da utilizzare per definirsi, quindi per non doversi troppo caratterizzare, se nel momento in cui si scrive qualcosa di comune o si scrive qualcosa per l'esterno, verso, no, la popolazione che non è politicizzata, allora si usa la parola donna, donne. E lì secondo me c'era, insomma, partendo dalla definizione da De Beauvoir, però aggiungendo anche insomma un ragionamento che ci eravamo fatte in quell'occasione, sì, sì, eravamo riuscite un po' a Sì, perché avevamo detto che donna, il termine donna in effetti di per sé non significa niente, non ci riconoscevamo noi nel termine donna, ci riconoscevamo nell'oppressione che questo sistema porta su determinati soggetti. Se questi soggetti poi si riconoscono come donne, però è un percorso al contrario, non è che io come donna ho qualcosa di particolare, proprio perché donna poi è generico, mentre l'oppressione che noi subiamo è precisa e investe tutte quelle che sono oppresse nello stesso modo. E questo si ricollega molto poi al discorso che facciamo spesso, sicuramente adesso stiamo tentando di dargli una connotazione più che riguarda nello specifico quello che è proprio il percorso di un militante, cos'è un militante, che è quello, no, appunto riguardo al femminismo, appunto la definizione di donna, no, di sorellanza, che è così generico che comunque, cioè, diventa allargato e appunto è preso completamente e completamente sussunto dal femminismo socialdemocratico. Oltretutto c'è mai come adesso l'insieme donna, come dicevamo anche nella trasmissione della settimana scorsa, che era nello specifico sulla violenza contro le donne, mai come adesso è attraversata dalla classe. Quindi se un tempo si poteva parlare di sorellanza e quindi magari usare il termine donna anche in questo senso, sempre comunque da prendere con le molle, adesso veramente usare il termine donna è spoliticizzato, perché la politicizzazione non è qualcosa che cala dall'altro. La politicizzazione significa che io scelgo una collocazione, semplicemente questo, io scelgo una collocazione e la definisco, e scegliendo quella collocazione mi muovo in un certo modo, e questo deve essere chiaro, non deve essere buttato in un calderone in cui non si capisce mai da che parte stai. Allora, proprio per questo abbiamo pensato che sarebbe molto importante riparlare della militanza, cioè che cosa significa recuperare il concetto di militante rispetto al concetto di attivista, il termine di compagna e compagna e femminista rispetto al termine di donna, e anche rispetto al termine di sorella, perché anche la sorellanza è un concetto molto generico e bisogna sapere che cosa chi è mia sorella e di chi sono sorella. E quindi abbiamo pensato che sia molto importante recuperare questo concetto, però prima di tutto dobbiamo un attimo capirci anche tra di noi, cioè capire tra di noi che cosa significa, capire con voi che cosa significa, perché lo spirito della trasmissione è anche questo, che cosa significa adesso essere militante e collocarsi. Diciamo che essere militante già di per sé presuppone il collocarsi, e quindi questo è già molto è fondante, no? E quindi è fondante il fatto che essere militante porti con sé una collocazione politica, e che quindi noi questa la vogliamo rivendicare e non la vogliamo assolutamente annacquare. Però noi volevamo analizzarlo un po' più ancora nello specifico. Perché? Perché ci è capitato di vedere tempo fa, insomma qualche tempo fa, di recuperare per caso e quindi di vedere un documentario di Godard, di Jean-Luc Godard, fatto negli anni 70, all'inizio degli anni 70. È stato fatto per la RAI, però poi non è mai stato trasmesso, la cosa non ci meraviglia affatto, ed è intitolato Le lotte in Italia. Allora, il titolo è molto infelice, nel senso non rende assolutamente il contenuto di quello che si vede, perché in effetti è un documentario sulla militanza, Praticamente è una ragazza, è incentrato tutto sulla figura di una ragazza, quindi di una compagna, no? Di una compagna che si chiede delle cose e si risponde, cerca di rispondersi. È diviso in tre parti. Allora, nella prima parte la compagna descrive attraverso dei flash, perché il documentario non è una storia concatenata, è come se fosse fatto ad immagini e poi dei vuoti neri e poi un'altra immagine, poi vuoti neri e poi una situazione, poi dei vuoti neri, che rispecchiano ogni volta una condizione diversa. Allora, lei descrive la sua militanza, quella che lei, insomma, in quel momento pensa che sia la militanza, e si vede lei che scrive il volantino, che lo rilegge, che sottolinea le parti più importanti, che ne parla con i compagni, no? Che definisce questa cosa qua. E quindi la militanza come la intendiamo noi nella maniera classica. E poi cambia immagine e si vede lei in famiglia. Allora lei torna a casa, no? E il padre che le dice: questa casa non è un albergo, non puoi andare e tornare quando ti pare, finché stai qui fai rispetti le regole di qua, eccetera eccetera. E lei che risponde magari un po', poi la madre dice: ah, basta, non voglio sentire parlare di politica in casa, non, parlate altrove o comunque non parlate per niente, roba di questo tipo, no? E allora lei dice: ah sì mamma, scusa, adesso penso, non ti preoccupare. E quindi nella situazione di famiglia lei fa un passo indietro, no? Poi si vede lei nella situazione, per esempio, all'università, come studentessa, nella condizione di studentessa, in cui lei è un numero di matricola e questo numero di matricola sta aspettando l'esame, di essere chiamata per l'esame. Lei sente la lezione, poi si vede che va all'esame, viene chiamata per l'esame, e quando il bidello chiama 22/15, non mi ricordo più il numero, lei risponde: sì, sono io, vengo all'esame. Quindi in quel momento lei fa un'altra parte, non so come dire, che non ha niente a che fare con la militanza, cioè con la parte politica che faceva prima. Dopodiché c'è un'altra immagine in cui lei è col ragazzo, e anche col ragazzo lei si comporta nella maniera più classica della coppia: sono stanca, fammi le coccole, il rapporto è impostato nella maniera più classica. E l'ultimo quadro racconta di lei che fa le lezioni di matematica a uno studente lavoratore, cioè lei che insegna fa lezioni private a uno studente lavoratore, e lei, facendo lezioni private, praticamente ripete quello che l'insegnante fa con lei, ripropone lo stesso schema, lo stesso meccanismo. A un certo punto lei si chiede: ma c'è una frattura che tra la vita che io faccio, tra la quotidianità che io attraverso tutti i giorni, e poi quella che io chiamo militanza, no? E questa cosa è sospesa, è evidente, molto forte anche. Poi c'è la seconda parte in cui lei analizza, cerca di analizzare perché succede questo. E allora i buchi neri che erano che nella prima parte dividevano un'immagine dall'altra vengono riempiti con delle fasi del processo produttivo. E lei dice: sì, perché c'è un'egemonia culturale di chi ha il potere che mi porta a riprodurre continuamente quelli che sono i meccanismi che lui ha impostato. Quindi, mentre da una parte cerco di scardinarli, io li ripropongo continuamente in famiglia, li ripropongo continuamente nel rapporto a scuola, li ripropongo continuamente col ragazzo, li ripropongo continuamente. E insomma c'è questo intercalare di immagini e immagini del processo produttivo, per cui lei dice sì, il problema è che l'egemonia culturale viene dal modello produttivo. La terza parte è invece quando lei pensa a come può uscire da questa situazione. E in effetti risposte non ce ne sono. Lei ha, fa delle prove. Per esempio, dice: ah, io non riesco. Se il processo, il modello produttivo è quello che poi determina l'egemonia culturale, provo ad andare, per esempio, a lavorare in fabbrica, cioè non studio più. Vado a lavorare in fabbrica, o anche mentre studio vado a lavorare in fabbrica, in modo che entro in contatto con le lavoratrici, in quel caso lì, e forse riesco a innescare dei meccanismi di verità in fin dei conti, no? E non di questo rapporto falsato tra la vita borghese quotidiana o comunque normale di un ceto medio e poi di là invece le operaie che producono, gli operai che producono, e poi di qua la militanza da un'altra parte. Lei prova ad andare a lavorare in fabbrica e scopre questo, scopre che è ancora più difficile portare avanti i discorsi. Perché? Perché nel momento in cui lei lavora ed è soggetta alle leggi del lavoro, chiamiamolo salariato, lei non ha neanche il tempo di dare il volantino alle altre, perché nel momento in cui dà il volantino alle altre, poi c'è una voce che le dice: guarda che tu stai facendo due modelli mentre le altre ne fanno cinque nello stesso tempo, e tu non puoi vincolare la produttività così, perché il premio di produzione poi è per tutte e tu lo mandi giù se fai questo lavoro qua. Allora, la risposta non c'è, è un problema aperto, però è un problema molto importante, perché io stessa quando vado al lavoro, quando vado a quando attraverso la vita nel quotidiano, mi rendo conto che la maggior parte dei discorsi sul dei militanti, o comunque delle militanti, o comunque la maggior parte delle persone, non si riconoscono come soggetti politici nel quotidiano. Cioè tu non senti, quando sei sul posto di lavoro, non riconosci uno che è compagno da uno che non è compagno, o meglio, o una che è compagna da una che non è. Nella stragrande maggioranza dei casi, io non dico che siano tutti così, per carità, cioè non è che si può fare di ogni erba un fascio, ma nella quotidianità c'è una frattura molto forte tra quello che sei. Tu vai all'università, come ti comporti all'università, cosa dici, cosa fai, cosa proponi e cosa accetti, e poi quando vai a fare il volantino, quando vai in piazza, oppure quando vai sul lavoro, cosa accetti, cosa fai, cosa dici, e poi quando vai in piazza, che significa quindi essere militante? Allora noi questa domanda, siccome la riteniamo molto importante, l'abbiamo fatta a una serie di compagni e vorremmo condividere questo sentire con altre compagne e vedere un attimo cosa significa per loro essere militanti, cosa significa la militanza e che cosa sentono nel quotidiano. Thank you. ein Mischer und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmel. E allora adesso a questo punto volevamo appunto fare degli interventi con delle compagne e stiamo per collegarci insomma con una compagna che voleva insomma darci il suo contributo su appunto la domanda che cos'è essere militante e quindi insomma poi continueremo comunque a parlarne qui in radio tirando fuori insomma quello che ognuna di noi pensa e ha ragionato su questo argomento. Was den Farben vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr war. Was den Farben vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr war. Sei? Sì, ciao. Eccoci. Allora, ciao. Non so se ci hai ascoltato prima, però insomma abbiamo provato a definire che cos'è sia la definizione di militante che di militanza e un po' appunto ripercorrendo il fatto che negli ultimi decenni la parola militanza e compagna sono sparite da diciamo l'uso comune sostituiti da attivista, da sorella, donna e vari termini generici per non definirci dal punto di vista politico, ma anzi per ribadire esatto una spoliticizzazione che è stata appunto una manovra insomma ben ragionata e che però insomma piano piano anche noi compagni e compagni poi abbiamo in qualche modo protratto fino ai nostri giorni utilizzando insomma questi termini e poi in realtà abbiamo tirato fuori un documentario di Godard dove c'era appunto una compagna che provava a tirare fuori proprio la frattura che esiste tra l'essere militante e quello che è la vita reale che rispetto alle relazioni personali, il lavoro, la famiglia, insomma, quindi volevamo sapere da te che cos'è la militanza per te. Guarda, io sono d'accordissimo con quello che stavi dicendo prima, nel senso che c'è stata appunto questa depoliticizzazione non solo delle termini, del linguaggio, ma anche dei contesti in cui poi noi andiamo a muoverci, no? Come appunto c'è adesso, quindi il lavoro, le relazioni e così via. Per me militanza vuol dire proprio questo, cioè ripoliticizzare lo spazio in cui vivo, qualsiasi esso sia, nel senso all'interno delle relazioni che vivo, del lavoro, quindi riportare anche a livello proprio anche concettuale di contenuto teorico, intendo dire. Per esempio nel lavoro riprovare a proporre il concetto di lavoro che io ho in mente, quindi il concetto di società che voglio portare avanti, portare avanti questo diciamo questa politizzazione teorica dello spazio in cui vivo, poi metto in atto ovviamente anche delle pratiche appunto con le compagne, con i compagni con cui sto. E quindi per me militanza vuol dire questo, cioè non so, partecipare soltanto a delle iniziative che comunque ovviamente è una cosa importante di visibilità e di rivendicazione, ma anche mettere poi le idee con cui porto avanti queste iniziative in tutto quello che faccio, relazioni comprese, relazioni sentimentali, relazioni amicali, familiari e così via. Questo per me è la militanza, diciamo. Beh sì, ci troviamo d'accordo e appunto noi prendevamo spunto dall'ultima parte del video anche per dire no quanto poi fosse invece difficile, poi ne parlavamo con te no l'altra volta, proprio di quanto no sul posto di lavoro soprattutto poi questa scissione e questa depoliticizzazione mi sono incartata sia così forte no che appunto molto spesso non si riesce poi a conciliare, invece quanto sia importante provare a mettersi in gioco anche su quel livello. Sì, io penso che sia fondamentale anche perché poi appunto come dicevi pure tu prima giustamente è difficile no cioè è difficile farlo anche per i ritmi di vita che si hanno, anche dal punto di vista lavorativo, quindi insomma non è che è proprio semplicissimo, ma è proprio per questo che secondo me bisogna immetterlo dentro, perché se, nel momento in cui è dentro è un flusso naturale, non è più una fatica, ma diventa, cioè deve diventare una prassi, una consuetudine, affinché non sia neanche più una fatica, diciamo, ma una cosa quotidiana, capito? Cioè per me è questa la, la cosa fondamentale da portare avanti, cioè viversi, quando si dice appunto vivere il territorio, animare il territorio in cui si sta, secondo me devono intendere anche tutti i micro territori che poi compongono questo spazio allargato. Diciamo che io ho notato anche un'altra cosa, che non è soltanto questa, è anche forse c'è una sorta di disabitudine a diciamo porsi come soggetto, io parlo sempre da compagna, insomma, per quello che riguarda me, porsi come soggetto politico in tutti i contesti, e questa è da una parte è una fatica, ma dall'altra penso che però sia l'unica strada per non soffrire poi anche, diciamo, in prima persona questa frattura, non sentirsi continuamente inadeguate rispetto alle situazioni che stiamo attraversando, non lo so. Sì, sono d'accordissimo, esatto, cioè questa cosa della frattura infatti in realtà secondo me un po' si vive abbastanza spesso, almeno dalle mie esperienze, dalle chiacchiere che mi faccio, ed è una cosa che invece appunto, cioè come dicevo, dovrebbe invece diventare una cosa quotidiana, così che non è, non c'è uno spazio della militanza e uno spazio della vita, ma sono collegati, no? Penso appunto alle varie iniziative che si fanno, anche di, non so, presentazioni di libri, aperture, quindi cioè, animare anche magari i territori e gli spazi in cui poi noi stiamo e agiamo con delle riappropriazioni nostre, con delle narrazioni nostre. Sì, anche perché questo si ricollega poi alle modalità di militanza, no? Che anche quanto compagne e compagni produciamo e proponiamo, e che a volte effettivamente appunto non coincidono con quelli che in realtà sono i tempi di vita di cui stavamo parlando finora, no? La difficoltà sta anche in quello, anche nel modello di tipologia di militanza, di scelta, no? Di percorsi da, a volte da attraversare. Forse insomma anche ripartire da questo può aiutarci a ricalibrare un po' quelle che sono le modalità che a volte sono più escludenti e sono anche frustranti, piuttosto che appunto invece di produzione in positivo, di un fare politico che ci rappresenti. Sì, sono d'accordo. Sì, per esempio, dimmi. No, dico, infatti il problema è proprio questo, cioè mentre parliamo cioè, sto proprio pensando concretamente a come realizzare quello che stiamo parlando, no? Quindi... Certo. No, per esempio io ho sofferto tantissimo questa cosa per anni, nel senso che forse da un po' di tempo a questa parte mi sento abbastanza ricucita, diciamo così. Sì. Ma ci sono stati degli anni in cui ho provato questa sensazione fortissima, e non soltanto riguardo alla militanza, ma anche riguardo a questo tipo di società che incentiva le fratture, no? Ti faccio un esempio. Quando io avevo i figli piccoli, allora da una parte ero la madre e venivo letta e vissuta, e il rapporto con me era il rapporto con la madre. Dopodiché sul lavoro era un'altra cosa, il rapporto con me veniva vissuto, cioè si rapportavano con me come quella persona che faceva quel tipo di lavoro. Dopodiché quando facevo la compagna del mio compagno ero un'altra cosa ancora, ero la compagna, ero l'amante, era, no? E c'era questa cosa terribile per cui ogni volta la gente si rapportava con me in maniera diversa a seconda di quello che rappresentavo in quel momento. E ancora di più nella militanza, perché era la quarta parte, no? Quindi queste quattro parti vivevano in maniera staccata continuamente ed era una grande sofferenza. Ma infatti, appunto, perché la definizione dei ruoli, no? Quindi rapportarsi con il ruolo piuttosto che con l'individuo, che secondo me ha molto a che fare anche con la depoliticizzazione della sociale delle persone, perché tu sei un ruolo, cioè una sorta di, adesso allargando un po' il pensiero, anche una cosa un po' di produzione, no? Quindi tu fai delle cose, non è che sei una persona portatrice di. Quindi sì, mi trovi d'accordo. E ok, non so se volevi aggiungere altro, che l'argomento insomma potrebbe farci parlare, penso, tutte le settimane. No, io anzi, per esempio, questo tipo di, cioè questa iniziativa, appunto, questo aprire anche la discussione a, come appunto fate sempre del resto, possono anche essere, cioè sto pensando in realtà delle cose concrete per mettere in atto quello di cui parliamo, no? Quindi diciamo che sto pensando a questo, dovremmo lasciarci con, come facciamo sempre, con dei programmi operativi, diciamo, per realizzare queste cose. Va bene, grazie. Grazie mille. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Sì, io riporto una mia esperienza sia da militante che da attivista. Ho fatto attivismo studentesco per un certo periodo della mia vita, e avendo fatto entrambe mi rendo perfettamente conto della differenza netta tra le due cose, che sono molto diverse. L'attivismo, non avendo colore politico, l'attivista interloquisce con tutte le forze politiche, già solo per questo è completamente diverso dalla militanza, perché la militanza propone e ha di base un'altra visione del, proprio perché è politico. L'attivismo si muove, e l'attivista si muove spesso e volentieri, poi ci sono anche forme di attivismo leggermente diverse, ma l'attivista si muove perché gli serve qualche cosa, cioè di base il meccanismo è questo. Certo. E si muovono gli attivisti e l'attivismo quasi come delle corporazioni. Ma c'è del vero, è vero. Si muovono come delle corporazioni, anche laddove perché c'è la rivendicazione di determinati diritti. Tra l'altro fa molto male alla lotta politica anche questo sistema pervasivo della promozione dell'attivismo come qualcosa di buono, perché c'è una sorta di bontà che serpeggia nella parola attivismo. Sì, che poi diventa volontariato. Cioè che esatto, è una sorta di volontariato. Esatto. Lo stavo infatti per dire, quando parlavo di un attivismo che è leggermente diverso dall'attivismo studentesco, dall'attivismo che quasi si vuole autonominare, autodefinire politico quando non lo è, quando parlavo di una forma leggermente diversa di attivismo mi riferivo all'attivismo mosso anche dalla buona fede di chi lo fa, che è l'attivismo nelle ONG o nelle organizzazioni appunto che promuovono i diritti umani anche in territori non autoctoni degli attivisti stessi, diciamo così, ecco, diciamo così, per mantenerci un su un piano di parole, con un giro di parole vanno a casa d'altri a dire quello che devono fare. E lo fanno anche in buona fede, io non metto in non si mette in discussione la buona fede, il problema è che promuovono una sorta di privatizzazione dei diritti umani. Sì. E che spesso anche dopo anni che sono presenti sul territorio non risolvono assolutamente nulla, perché chi deve fare le lotte è il popolo, ma il popolo si deve autodeterminare. Non mi ricordo più chi ha detto che le ONG sono il problema, non sono la soluzione. Esatto. Ora, fanno anche delle cose, io non voglio gettare, non sparo nel mucchio proprio per costituzione mia personale, però fanno anche studi di settore, eccetera, spesso anche viziati con dati non proprio rispondenti alla realtà, come tutti gli studi di settore quasi. Però la politica è una cosa diversa e la connotazione politica è diversa, perché passa anche attraverso una presa di coscienza di chi si muove per in determinate direzioni, perché gli attivisti chiedono gentilmente dei diritti e si muovono sullo spazio di negoziazione del diritto, e soprattutto interloquendo con le istituzioni spesso si sporcano le mani, ma non con semplici compromessi, ma con connivenze vere e proprie, perché hanno bisogno di finanziamenti. Certo. E scendono spesso a patti per questo, quindi non sono puliti. Certo. E questo ovviamente inficia gli stessi buoni propositi che si pongono. E quello che è più grave è proprio questa idea di privatizzazione del diritto, e l'attivismo fa male perché va anche a segnare con un forte particolarismo. Un forte particolarismo le singole lotte, cioè è una parcellizzazione della lotta, e questo è sbagliato. E quando mi sono trovata a fare attivismo studentesco, noi chiedevamo determinati, infatti, diritti per una certa categoria di studenti, perché? E parlavamo con tutte le forze politiche, perché? Perché nessuna forza politica, avendo una connotazione politica innanzitutto degna, parlando delle forze politiche italiane soprattutto, ma non avendo un quadro, una visione di quello che è giusto e quello che è sbagliato, e soprattutto facendo solo gli interessi di determinate forze altre o determinati poteri forti, se ne fregavano definitivamente di quello di cui c'era veramente bisogno. Quando invece l'attivismo chiede, appunto, si muove per singoli diritti, la militanza propone uno scardinamento del sistema. Questa è la differenza, ecco perché fa paura. We'll be right back. torniamo in diretta sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e stavamo parlando della militanza e di che cos'è per noi la militanza, una domanda che abbiamo rivolto e aperto a tutte le compagne che vogliono dare un contributo sia in questa sede che in altri momenti, speriamo che si possano dare, e in attesa di avere un altro contributo dal vivo qui in radio, vi leggiamo un pezzo dell'intervento che hanno fatto le REFE, Relazioni Femministe delle Compagne, un gruppo di compagne, all'incontro nazionale che abbiamo fatto ormai 4 anni fa, Memoria Collettiva, Memoria Femminista. REFE, la storia di ognuna che si fa storia di tutte noi. Il percorso di REFE, Relazioni Femminista, è nato da alcune compagne di 3 diverse città, Milano, Genova e Torino, che in anni passati avevano già avuto occasione di condividere tratti di percorsi femministi e che a loro volta hanno coinvolto altre donne con cui erano in relazione. Donne di età e percorsi diversi hanno così cominciato a confrontarsi a partire da una comune volontà: uscire da una fase in cui non si riusciva ad incidere con il proprio sguardo di genere all'interno delle lotte e delle situazioni in cui vivevano. Inoltre, nessuna di noi era più disposta a sopportare il dispositivo lamentela vittimizzazione. Tutte ci sentivamo estranee ai processi di delega e al percorso di addomesticamento istituzionale di parte del movimento delle donne. Eravamo invece desiderose di trovare insieme strumenti per acquisire nuova consapevolezza e forza e per esprimere la nostra rabbia contro il sistema dominante senza cadere nella trappola violenza non violenza, che poi si traduce nella contrapposizione paternalista e maternalista tra buone e cattive. Già nella sua fase embrionale, quindi, REFE è stato un luogo di sperimentazione dei propri desideri. In brevissimo tempo sono emerse le questioni che più ci stavano a cuore: conflitto, corpo, violenza. Per affrontarle eravamo consapevoli che alcuni strumenti pratici elaborati dal movimento delle donne nei decenni precedenti si mostravano ancora affilati ed efficaci, altri andavano aggiornati, altri ancora dovevano essere inventati e sperimentati ex novo. Per alcuni mesi abbiamo viaggiato avanti e indietro fra le 3 città per trovarci e discutere, spinte dalla voglia di agire, di esplodere nel presente ed affermare le nostre convinzioni, ma anche di sperimentarci tra di noi, cercando nuove modalità di relazione che siano libere da ogni forma di potere e autorità. Un clima aperto per provare ad attraversare e sperimentare insieme non la politica, ma delle pratiche politiche, crescita individuale, conflitto con l'esterno, relazioni tra donne, rapporto con il proprio corpo e quello delle altre, immaginario. E in effetti è il tentativo di riportare a unità le fratture che attraversano la nostra vita. Per esempio, sempre nello stesso incontro c'è un altro contributo di alcune compagne di Milano estremamente interessante, di cui vi leggiamo un pezzo, che dice: siamo un collettivo femminista, tra di noi ci sono molte generazioni con diverse storie politiche. Nel nostro agire di gruppo non ci siamo confrontate sul passato, ma sulle difficoltà del presente e sulle pratiche da inventare. E solo in quel momento ciascuna rivedeva in modo critico le esperienze trascorse e sentiva l'esigenza di trovare un agire collettivo e a partire dalle proprie incertezze. Loro praticamente sono partite dai CIE, dalle lotte contro i CIE, no? E dice: partire dai CIE non era una questione prettamente di genere e ci ha un po' costrette a percorrere strade diverse rispetto alle quali non avevamo certezze sulle possibili pratiche da agire. Volevamo affrontare le politiche migratorie e anche cercare la relazione con donne migranti. No, però occuparsi di qualcosa che non fosse prettamente di genere, che coinvolgesse prevalentemente uomini, ha portato alcune di noi ad allontanarsi. Questo però ci ha costretti a interrogarci e ci ha aiutati a decostruire tutte quelle sovrastrutture, quel si deve fare così, che un po' ci bloccavano nel percorso, rinchiudendoci nostro malgrado tra le quattro mura che ospitavano le riunioni o i binari metaforici che in qualche modo ci avevano guidato fin lì. Nelle nostre esperienze pregresse di femminismi abbiamo assunto un problema, abbiamo scelto in modo molto chiaro di non occuparci di qualcosa o qualcuno, di non cadere nell'assistenzialismo, e abbiamo cercato in tutti i modi di evitare di essere le occidentali liberate che insegnano la vita alle migranti represse. Swiftly through the sky, how the winds are laughing. They love with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Bum, bum, bum. Told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Bum, bum, bum, bum. E siamo di nuovo in diretta, eccoci qua. Allora, no, io volevo dire una cosa forse un po' diversa da quella che si è detta prima, perché secondo me a volte si fa un po' di confusione tra il concetto che il personale è politico e la coerenza, che non sono esattamente la stessa cosa. Per cui personale e politico secondo me vuol dire prendere spunto da ogni vicenda personale per tirarne fuori punti politici generalizzabili, e questo è quello che andrebbe fatto in tutti i contesti, appunto al di fuori della militanza. Per cui anche quell'esempio che si faceva prima, rendersi conto che andare a lavorare in fabbrica non ti consente di andare a fare un volantinaggio, che probabilmente le donne lì fuori non hanno tempo di venire a un'assemblea, ti costringe a porti il problema di cambiare la tua pratica di militanza. E questo secondo me è un punto importante, perché altrimenti rischiamo di pensare che i militanti siano dei martiri, gli eroi, e non dobbiamo essere questi. Soprattutto non sono i militanti a essere il soggetto oppresso, capito? Quindi noi dobbiamo tentare di identificarci non come militanti, cioè militanza è una cosa che facciamo proprio per far uscire fuori il resto. Quindi altrimenti rischiamo di essere tanto isolati anche nei luoghi, cioè in tutti i luoghi che non siano appunto prettamente di comunità e di militanza, e quindi soltanto per puro narcisismo, con il rischio soltanto di affermare identità e di non arrivare al punto. Perché secondo me questo è il punto, secondo me militanza è una pratica di liberazione, e la liberazione non può mai essere individuale, quindi in maniera individuale si può raggiungere soltanto l'emancipazione personale. Che questo vuol dire, se io nel mio luogo di lavoro mi impunto, forse essendo meno più cosciente, meno paurosa di altri, forse riesco ad avere un aumento salariale, forse sì, ma questo ha portato qualcosa, forse no, per quello che è la coscienza in generale. Quindi secondo me la militanza è anche strategia, e la strategia è anche disciplina. E quindi questo vuol dire saper attendere, saper ascoltare, saper cogliere gli appigli che la realtà ci dà per creare coscienza politica. E questo appunto vuol dire che quello che diciamo prima, se io vado a volantinare per fermarmi a volantinare, le altre donne mi schifano perché faccio diminuire i loro soldi, vuol dire che non è questo il modo che posso utilizzare. Quindi secondo me bisognerebbe fare veramente il contrario, cioè secondo me il problema vero è che bisognerebbe creare degli spazi collettivi in cui le militanti possano riuscire di nuovo a sentirsi donne, nel senso di recuperare la parte di realtà in cui vivono e capire quali sono i problemi che si vivono lì e riportarle nel collettivo, in modo che quando se ne discute in maniera collettiva, poi dialetticamente come collettivo si prende una decisione, una soluzione che è collettiva, e quindi la militante nel contesto in cui si trova diventa soltanto l'esecutrice di qualcosa che è stato deciso insieme, o si fa un'azione insieme, ed è questo secondo me che a volte non si riesce a tirare fuori, perché molto spesso appunto quasi ci vergogniamo del fatto di non essere militanti negli altri luoghi, invece di capire che forse questo è un problema proprio. È proprio il problema che non è facile, non neanche fare i militanti, neanche fare gli attivisti, non è facile fare niente al di fuori dei contesti puramente di compagni, e questo secondo me dovrebbe essere invece un problema, cioè un punto che andrebbe sollevato tra le compagne e i compagni, ecco. Stand in fact is when they get that foot off our back. Ah, it's gonna be alright. Everything's gonna be alright. What to do? What to do now? Allora, siamo arrivati alla fine della trasmissione, la parentesi la carichiamo sul blog perché il tempo è arrivato, e passiamo ai saluti. Appunto ci continuiamo appunto a fare gli auguri a Radio Onda Rossa per i suoi 39 anni e appunto diamo il conto corrente postale per finanziare. A proposito dell'attivismo che prende finanziamenti e della militanza invece, perché che la radio non ha padroni, questa radio è militante e quindi ha bisogno del vostro sostegno. E appunto, quindi vi ricordiamo che il conto corrente postale è 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56-00185 Roma. Ovviamente sul sito trovate tutto. Per quanto riguarda noi, se ci volete scrivere, coordinamenta@autistiche.org, il blog è coordinamenta.noblogs.org, e ovviamente se ci volete mandare contributi sulla puntata di oggi, su che cos'è la militanza per voi, siamo molto felici di accogliere da voi compagne questi contributi. Quindi buona serata, al prossimo mercoledì, ciao.